Ecco l'alba dei tempi moderni. Saul consultò la strega di Endor e i re si affrettarono a chiamare Balaam, ma gli uomini moderni consultano la curva statistica. Essa mostra ciò che è accaduto e quindi ciò che accadrà. Così, solo ieri, la curva statistica della natalità americana ha rivelato che nel 1960 la grande maggioranza degli americani avrà più di 60 anni, gli asili e le scuole saranno vuoti, e le fabbriche chiuse per mancanza di lavoratori. E un interrogativo terrificante si pone all'intellettuale: dove troverà il governo i fondi per sostenere una popolazione quasi interamente dipendente dalle pensioni di vecchiaia? Si vedano le serie riviste intellettuali americane del 1936 circa per una discussione approfondita di questo problema vitale. Il governo di Re Giorgio agì saggiamente per evitare la catastrofe all'Inghilterra. Limitò l'emigrazione verso le colonie e fermò qualsiasi espansione degli insediamenti in America, escludendo rigorosamente i coloni dal territorio dell'Ohio, che l'Inghilterra aveva appena sottratto alla Francia con le guerre franco-indiane. Questa azione riservò anche la valle occidentale del Mississippi per sempre agli indiani che sostenevano il prezioso commercio di pellicce. Se questa non è un'economia saggiamente pianificata, allora cos'è? La maggior parte dei libri di testo americani parla di un declino del commercio di pellicce circa un secolo fa, come se fosse la fine del commercio di pellicce. La Valle del Mississippi produce oggi da 6 a 10 volte le pellicce di valore che la regione selvaggia produceva ai tempi dei famosi commercianti di pellicce. St. Louis è normalmente il principale centro mondiale del commercio di pellicce. Il governo britannico stava agendo coerentemente per il bene di tutti i suoi sudditi. Bilanciò in modo mirabile l'industria, l'agricoltura e la navigazione. Nessuno oggi può fare un piano migliore basato sui fatti come erano allora. Le colonie dovevano essere permanentemente agricole, l'industria era mantenuta nella piccola isola natale e la navigazione era assicurata dal viaggio triangolare tra l'Inghilterra, le Indie occidentali e i porti dell'Atlantico. Beh, migliorate questo aspetto se potete. L'accuratezza dell'economia pianificata comprendeva anche i pini. Gli uomini del re passarono in rassegna le foreste americane contrassegnando i pini migliori riservati alla Marina Reale e alla Marina Mercantile. Questa azione ragionevole fece infuriare a tal punto i coloni che non solo rubarono i pini del re ogni volta che poterono, ma fecero del pino un simbolo di libertà. La bandiera del pino sventolò sugli alberi delle navi da combattimento americane per tutti gli anni della prima guerra della rivoluzione. Gli europei non riuscivano a capirlo. Perché, ad esempio, qualcuno dovrebbe opporsi all'imposta di bollo, una piccola e adeguata tassa imposta su ogni documento legale richiesto. Tuttavia, quando i coloni si rifiutarono violentemente di pagarla, il governo la abrogò. Allora chi può spiegare il Boston Tea Party? C'era una sovrapproduzione di tè che minacciava di abbassare i prezzi e di danneggiare la Compagnia delle Indie Orientali che produceva il tè e i commercianti di Londra che lo vendevano. Un calo dei prezzi deve sempre essere evitato a tutti i costi. I prezzi bassi aumentano i consumi, il commercio, la produzione e l'occupazione. Per evitare questo disastro, il governo britannico avrebbe potuto bruciare le eccedenze di tè, come il Brasile ha bruciato le eccedenze di caffè. Invece, ha spedito il tè in America per venderlo a un prezzo controllato, un po' meno di quanto gli americani pagavano per lo stesso tè. I coloni accolsero questo tè buono e più economico con applausi di gratitudine. No, hanno saccheggiato la nave e gettato il tè nel porto. E quando le truppe del re si mossero per ristabilire l'ordine, la plebaglia si sollevò in armi, la feccia delle classi inferiori si alzò in piedi e sparò sui regolari inglesi. 2. Senza un leader. La rivoluzione americana non aveva un leader. Centinaia di migliaia di uomini e donne che vissero e morirono, sconosciuti a tutti, tranne che ai loro vicini, e che ora sono completamente dimenticati, iniziarono il terzo tentativo di creare le condizioni in cui gli esseri umani possono usare la loro libertà naturale. Questo è il grande fatto della storia. Abramo e i profeti dopo di lui sapevano che ogni essere umano è autocontrollato e responsabile. Cristo lo sapeva, Maometto lo sapeva. E 11 secoli dopo Maometto lo sapevano alcune centinaia di migliaia di uomini e donne comuni che vivevano sulle coste del Nord America. Questo fatto è la speranza del mondo, perché solo individui sconosciuti possono creare e mantenere condizioni in cui gli uomini possano agire liberamente, condizioni in cui l'energia umana possa operare per migliorare il mondo umano. Solo un individuo che riconosce che la sua responsabilità di autocontrollo è una condizione della vita umana e accetta pienamente la responsabilità di creatore del mondo umano può proteggere i diritti umani nell'infinita complessità delle relazioni degli uomini e delle donne tra loro. Solo questa protezione individuale dei diritti di tutti gli esseri viventi può mantenere la loro libertà naturale su questa terra. Gli uomini e le donne viventi creano il mondo umano. Ognuno è responsabile della stupidità, della crudeltà, dell'ingiustizia, dei torti di cui si lamenta. Che si tolga la trave dal proprio occhio. Non sono mai stata stupida, non ho mai commesso una crudeltà, un'ingiustizia, un torto contro un'altra persona. Sono una creatrice di questo mondo così com'è, sono responsabile di ciò che è. Ma poiché nessun uomo o donna può controllarne un'altra, su questo pianeta vivono 20 miliardi di esseri umani. Molti di loro, uno per uno, devono smettere di credere negli dei pagani e conoscere la vera natura dell'energia vitale umana prima che questa possa operare efficacemente per rendere il mondo adatto a essere abitato dagli esseri umani. La Terra non è mai stata piatta, ma più di qualche uomo ha dovuto saperlo che non è piatta prima che le navi girassero intorno e facessero il giro. Quindi, niente nella storia o sulla terra è più prezioso di un individuo che sa che gli uomini sono liberi. L'America è iniziata con poche centinaia di migliaia di persone, solo poche centinaia di migliaia, quindi, ma mai prima d'ora gli individui avevano agito senza un leader. Questi primi americani e americane non avevano bisogno di un Führer, non avevano bisogno di un pastore, ognuno di loro sapeva di non essere una pecora. Aveva imparato cos'è la realtà per esperienza. Come materiale umano non era nulla di cui vantarsi. Gli uomini di successo, importanti e ammirati, non lasciano la loro casa per sparire in una remota regione selvaggia. I coloni erano gli straccioni e i vagabondi d'Europa. Non c'era una statua della libertà nel porto di New York che dicesse all'Europa: mandatemi i miseri rifiuti delle vostre coste brulicanti. Ma era proprio quello che l'Europa mandava. Disgraziati, affamati, fortunati a sfuggire alle prigioni dei debitori, vagabondi delle strade, dei bassi fondi che si vendettero per anni alla schiavitù per pagarsi il passaggio in classe turistica attraverso l'Atlantico. Contadini spediti come bestiame, navi cariche di donne e ragazze affamate e senza dote vendute all'asta nei porti ai coloni che avevano bisogno di mogli. I pellegrini e gli amici, chiamati con disprezzo quaccheri, erano gli Holy Rollers e i testimoni di Geova dell'epoca. I cavalieri e i puritani furono cacciati dai loro paesi non perché lo volessero. I governatori reali e i loro accompagnatori erano avidi e spregiudicati imbroglioni e soci dei pirati. Più di uno di loro condivideva apertamente il sanguinoso bottino con gli assassini che era suo dovere impiccare. A parte questi, gli aristocratici delle colonie erano figli minori, parenti poveri e pecore nere della nobiltà europea, che era ben contenta di liberarsi di loro. Gli americani sono sempre stati immigrati. L'America è sempre stata Ellis Island. In America, questi falliti, emarginati e rifugiati si sono scontrati con la reale situazione umana su questa terra. I signori direttori delle compagnie commerciali avevano speso grandi somme di denaro per raccogliere i coloni e spedirli in America. Aspettandosi grandi profitti, promettevano ai coloni ampi rifornimenti. Spesso inviavano le forniture per l'anno successivo con lettere che anticipavano fiduciosamente la prima rata dei profitti. Poi, ululando con crescente angoscia per quei grandi profitti, per qualche profitto, per avere almeno un ritorno del loro investimento, infine per riaverne anche solo un po', lo persero. E la compagnia fallì. Questo lasciò il colono bloccato tra un mare vuoto e una natura selvaggia e sconosciuta, entrambi totalmente indifferenti al suo destino. Non poteva fare a meno di sapere che nient'altro che l'energia umana attaccando questa terra può mantenere in vita un uomo. Non poteva permettersi l'illusione che qualcuno o qualcosa al di fuori di se stesso lo controllasse. Doveva sapere che era responsabile della propria vita, se non l'avesse salvata lui, nessuno l'avrebbe fatto. In Virginia ci sono stati decenni orribili in cui anche un aristocratico doveva lavorare o morire di fame, poteva scegliere. Non aveva nemmeno un precedente che lo guidasse, perché nessun uomo della classe dirigente aveva mai dovuto fare una scelta del genere. Per quanto riguarda gli uomini delle classi medie, basse e inferiori, beh, la loro vita era sempre dipesa dalla ricerca di un lavoro. Su questo lato della terra non esisteva un solo lavoro. Dovettero attaccare la terra nuda con le mani. Impararono che l'unica fonte di ricchezza è l'energia umana che attacca questa terra. Ognuno di loro, usando la propria energia con tutte le forze per salvarsi la vita, sapeva chi controllava la sua energia. Questi coloni non credevano negli dei pagani, non immaginavano che Nettuno governasse il mare o che un temporale fosse causato da Zeus arrabbiato. E quando il capitano Standish e John Alden videro quella piccola ragazza francese, Priscilla Molin, nessuno di loro credette che Eros avesse scoccato una freccia avvelenata nel suo cuore. In 150 anni, cinque generazioni di coloni crearono città più confortevoli e fattorie più produttive di qualsiasi altra in Europa. Ora avevano il sistema di classi feudali, governatori reali con le loro splendide corti, giudici del re in abito e parrucca, rispettabili borghesi e sotto di loro i contadini, i servi e gli schiavi legati, i cacciatori e i boscaioli vagabondi. Ma di tutti questi, solo pochi aristocratici e giovani radicali selvaggi, come quelli che Benjamin Franklin conosceva a Boston, avevano sentito parlare delle moderne divinità pagane. Gli intellettuali francesi stavano allora immaginando il primo di questi. Nessuno poteva più negare che la Terra fosse rotonda, né che si muovesse nello spazio, ma i pensatori del vecchio mondo si erano ripresi da quello shock meravigliosamente, senza disturbare, dopotutto, la loro credenza pagana che l'universo sia immobile e immutabile. Ora spiegavano che l'universo è meccanicistico. In questo nuovo universo pagano le parti si muovono. L'universo meccanicistico si muove come un orologio, cioè le sue ruote girano. Non cambia nulla, non si crea nulla, non c'è vita, non c'è energia. Tutto il suo movimento è assolutamente controllato. Le sue ruote girano per sempre senza mai cambiare, senza mai andare da nessuna parte. Non ha nemmeno bisogno di essere caricato, non ha una molla, non ha nulla che gli dia energia, semplicemente è. Tutto qui è stato creato e ora è controllato. Che cosa lo controlla? La risposta è la legge naturale. Se questa è una risposta. Questa nuova idea dell'antico universo statico faceva parte di un grande risveglio intellettuale dell'Europa. Gli intellettuali francesi allora erano pazzi per la scienza, come gli intellettuali americani lo sono stati di recente per la psicoanalisi. Galvani aveva catturato qualcosa che formicolava in un barattolo e Franklin aveva fatto scendere la stessa cosa dal cielo su una corda d'aquilone, dimostrando che si trattava di un fulmine. Tipici del loro genere in tutte le epoche, gli intellettuali francesi hanno subito dichiarato che non esiste Dio e hanno fatto della scienza un Dio. La legge naturale, dicevano, controlla l'universo e tutte le cose che lo compongono, compresi ovviamente gli uomini. Cioè, la legge naturale controlla naturalmente l'uomo e la donna naturali, ma la civiltà ha in qualche modo preso il controllo degli uomini viventi. La civiltà è un controllo non naturale, causa di tutte le miserie e i crimini umani. La civiltà dipende dalla religione e la scienza, speranza dell'umanità, sta facendo guerra alla religione. Questi intellettuali vedevano la guerra come la natura delle cose, perché Mani anticamente lo aveva fatto, dichiarando la continua lotta tra il bene e il male. E forse alcuni americani immaginano che ci sia una guerra tra scienza e religione, perché l'hanno fatto gli intellettuali francesi. Naturalmente non c'è mai stato alcun conflitto tra religione e scienza. I fatti sono in disaccordo con le fantasie, ma non con altri fatti. Nessun fatto del mondo materiale litiga con un fatto morale o spirituale. Come disse Thomas Paine, lo studio della scienza è uno studio divino perché è uno studio delle opere di Dio nella creazione. Gli uomini non creano i principi dell'astronomia o della matematica, né danno proprietà al cerchio e al triangolo, essi scoprono che esistono queste leggi. Gli intellettuali francesi Avevano fiducia nella scienza. La scienza avrebbe vinto la guerra, distrutto la religione e quindi spazzato via la civiltà con tutti i suoi mali. La scienza avrebbe poi rivelato la legge naturale. Bisognava trovare un despota illuminato che emanasse una serie di editti basati sulla legge naturale. Questi editti stabiliranno l'età della ragione. Il despota illuminato si dissolverà perché gli uomini che vivono secondo la legge naturale non hanno più bisogno di despoti. E l'uomo naturale, vivendo finalmente in modo naturale, sarebbe sempre stato buono e felice. Non sto esagerando, né cercando di essere divertente. Questo è esattamente ciò che i grandi leader intellettuali europei credevano sinceramente nel 1776. Il giovane Benjamin Franklin smise di parlare ai suoi radicali della possibilità del progresso, andò a Filadelfia e costruì un'azienda tipografica progressista. George Washington, ancora adolescente, portava con sé un moschetto e teneva d'occhio gli indiani mentre si guadagnava da vivere come agrimensore nelle terre selvagge della Virginia. Gli intellettuali francesi vivevano di aristocrazia mentre scrivevano libri e opere teatrali per minare gli aristocratici e cercavano il despota illuminato che avrebbe instaurato l'età della ragione. Ammiravano molto Giorgio III, era una possibilità, ma la maggior parte di loro scommetteva su Federico il Grande di Prussia, il despota più illuminato d'Europa. Era il despota che aveva suggerito di dividere la Polonia, era quello che per capriccio, come diceva lui, aveva scatenato la guerra dei 7 anni. Voltaire trascorse molto tempo alla corte di Federico e al soldo di Federico, parlando brillantemente di scienza, diritto naturale, età della ragione, e ascoltando le poesie di Federico che non riusciva ad ammirare quanto le sue. Dopo una lunga serata di discorsi brillanti interrotti dalle poesie di Federico, a volte Voltaire non poteva fare a meno di chiedersi quanto Federico tenesse all'età della ragione. Certo, Federico non poteva imporre la legge naturale ai prussiani finché la scienza non avesse rivelato cosa fosse la legge naturale, ma non era forse vero che il re di Prussia sprecava il suo promettente intelletto in progetti di ingrandimento della Prussia? Questi dubbi, uniti alla consapevolezza sempre più forte e contrastata che Federico lo stava togliendo dal suo libro paga, resero Voltaire cinico. Tutto questo mondo intellettuale era molto al di sopra delle teste della maggior parte degli americani. Gli uomini istruiti leggevano Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Chateaubriand, lungo tutto il Mississippi e il San Lorenzo, in tutti i possedimenti britannici, ma i commercianti incolti, i contadini, i marinai, i cacciatori, non leggevano praticamente altro che almanacchi, giornali di provincia e la Bibbia. Erano figli di uomini e donne che avevano rischiato la vita per leggere la Bibbia. Sapevano di uomini bruciati sul rogo, strappati da una giuntura all'altra sulla rastrelliera, spezzati sulla ruota per aver detto che gli uomini avevano il diritto di leggere la Bibbia. Avevano sentito parlare delle riunioni furtive al buio per ascoltare la Bibbia letta in un sussurro alla luce di una sola candela. L'allarme, il terrore, le fughe frenetiche dagli assassini che inseguivano con le torce attraverso i vicoli e sui tetti, o le riunioni in aperta brughiera sotto il cielo senza luna per leggere la Bibbia. L'improvviso clamore, i cavalli che caricano e la corsa davanti ai cacciatori al galoppo, i soldati che abbattono uomini e donne e li colpiscono con le spade, e poi il lungo nascondersi mentre le truppe cercavano con astuzia e le madri vedove di notte giacevano sott'acqua nei fossati, pregando Dio che il bambino non piagnucolasse e che la caccia finisse prima dell'alba. Così in America leggevano la Bibbia, erano felici di essere al sicuro in America, dove alla luce del sole e senza paura potevano leggere la Bibbia. Nella Genesi leggono l'ipotesi nebulare della creazione e la teoria evolutiva dello sviluppo della vita sulla Terra, l'essere di avventure e crimini, di fughe per un pelo, di guerre e spie, di affari e intrighi politici, di storie di giovani innamorati e di vita familiare. Riflessero sulla saggezza salata e sull'analisi senza mezzi termini delle motivazioni e della natura umana. E quando leggevano le parole di Abramo, Mosè, Gedeone, Samuele e Gesù, che dicevano che ogni individuo è autocontrollato e responsabile, queste parole si accordavano con ciò che conoscevano per esperienza. Così, quando il governo britannico cercò di controllarli, essi lo ignorarono. Per loro il marchio del re su un albero era solo un marchio. Se avevano bisogno dell'albero lo usavano. Quando il governo fermò la tessitura nelle colonie, la tessitura non si fermò. Le donne continuarono a lavorare al telaio. Quando il re controllò il commercio, di fatto non lo controllò, i coloni continuarono a commerciare. La ribellione americana contro l'Inghilterra iniziò nel 1660, 39 anni dopo che il primo pellegrino aveva messo piede sulla costa severa e rocciosa dell'America, e fino alla resa di Cornwallis a Yorktown, 121 anni dopo, la ribellione americana fu una continua rivolta contro, appunto, l'autorità che pretendeva di controllare con un'economia pianificata. Nel 1660, mentre l'Inghilterra era un pezzo di terra interamente circondato da contrabbandieri e i fantasmi dissotteravano i morti per ottenere stoffe di lana, Carlo II si rimise i polsini di pizzo e firmò un'altra legge per migliorare l'industria del regno. L'atto prevedeva che i coloni americani non potessero spedire lana, cotone, tabacco, zucchero e altri articoli di cui le misere classi inferiori inglesi avevano disperatamente bisogno in nessun altro paese che non fosse l'Inghilterra. Se il governo fosse responsabile dei suoi sudditi, questa legge sarebbe sensata come un contadino che quando il suo bestiame è affamato non vende il suo grano, ma lo porta solo dalla mangiatoia al suo bestiame. Ma l'energia umana stava lavorando in America e i coloni commerciavano con i coloni spagnoli e francesi. L'interruzione di questo commercio significava la miseria in America. Gli americani sapevano qualcosa della realtà. Stavano combattendo contro il mare e la terra per la loro vita e un pezzo di pergamena non li avrebbe fermati. Questo pezzo di pergamena li rese improvvisamente dei criminali, ma continuarono a commerciare con le Indie occidentali. La verità è che Carlo II era troppo negligente per controllare il commercio. Le sue navi affondarono alcune navi di commercianti, ma nessun colono fu spezzato sulla ruota o bruciato vivo per il crimine di scambiare lana con zucchero. Per 73 anni gli affari americani sono stati in parte contrabbando. La gestione dei blocchi era un normale rischio commerciale. Gli artiglieri del re uccisero alcuni marinai, sprecarono alcune merci e mantennero i prezzi più alti di quanto sarebbero stati. Tutto qui. I coloni, lungi dal morire di fame, prosperarono. Poi, nel 1733, il governo annunciò un piano quinquennale. Il governo francese stava proteggendo il commercio francese, il re sole regnava in Francia, quel lungo e glorioso regno splendeva sull'Europa, con una luminosità crescente che abbagliava e civilizzava tutti gli europei che contavano e illuminava persino le tenebre barbare della Moscovia. Questo era il Settecento, l'età dei lumi che ancora abbaglia gli americani. Questo è stato il secolo dell'arte, della cultura francese e della leadership intellettuale, il secolo di Versailles, che ha impiantato nelle menti dei parigini una fede imperitura nella gloria imperitura della Francia. Il popolo francese non ha mantenuto le libertà feudali, ha mantenuto la struttura di classe feudale e il dovere feudale. Stracciato, affamato, il popolo francese, fedele come i girasoli che muoiono nella siccità, continuava a rivolgere il viso al suo glorioso e divino Re Sole. Il governo francese non permise assolutamente ai suoi coloni di spedire cibo in Francia per abbassare i prezzi e rovinare i commercianti. Così i coloni francesi non avevano mercati. Cioè, nelle Indie occidentali c'era una sovrapproduzione, i loro bisognosi vendevano disperatamente i prodotti dei loro campi di canna per qualsiasi cosa potessero ottenere in cambio. Quindi, naturalmente, per proteggere i suoi sudditi da una concorrenza così rovinosa, il governo britannico proibì ai coloni americani di acquistare melassa, zucchero e rum a basso costo. Ma gran parte degli affari dei coloni dipendevano dal commercio delle Indie occidentali. Tagliarlo significava la rovina di tutte le colonie britanniche. I coloni emisero un urlo terribile e nel 1735 il governo britannico rispose in modo rassicurante. Questo è solo un piano quinquennale. Ora può fare un po' male, ma presto sarà tutto finito. un gran numero di uomini d'affari nelle colonie, quindi praticava un piccolo contrabbando temporaneo, ma nel 1738, alla scadenza del primo Molasses Act, il governo britannico lo rinnovò dicendo: "Questo è il secondo piano quinquennale". Il contrabbando cominciò a essere molto ben organizzato. Nel 1743 l'abrogazione della legge sulla melassa avrebbe causato un crollo degli affari nelle colonie, ma il governo la rinnovò dicendo: "Questo è il terzo piano quinquennale". A quel punto, le condizioni in America erano proprio quelle che tornarono ad essere quando il governo federale smise di bere in questa repubblica. Ogni brocca di melassa, ogni zolletta di zucchero, ogni rum toddy dalla Florida al Maine era illegale, una sfida al governo. Chiunque si sognasse di obbedire alla legge era un fanatico pazzo e cercare di farla rispettare era una farsa. Dentro e fuori dai porti, lungo la costa e attraverso i Caraibi, le agili navi americane mostravano i talloni alla marina di Sua Maestà o, messe alle strette, stavano in piedi e combattevano, incitate dalla gente di casa. Il commercio era fiorente come ogni altra cosa, i commercianti facevano fortuna. Ogni viaggiatore che si recava in America si meravigliava della prosperità del luogo. Nel 1748 l'affidabile governo britannico rinnovò la legge sulla melassa, ripetendo una spiegazione che nessuno ascoltava più: un piano quinquennale. Allora le due autorità che dovevano spostare le loro frontiere si puntarono le armi addosso. Le guerre francesi e indiane, che i coloni di provincia chiamavano pittorescamente guerra francese, perché in America entrambi i governi davano agli indiani i coltelli per lo scalpo e pagavano bene gli scalpi. Le capanne vennero bruciate, i coloni vennero uccisi e scotennati o scotennati e tenuti per essere torturati e bruciati sul rogo. Le donne vennero allontanate per diventare squaw e indiane e i bambini per essere adottati dagli indiani. Ma la gente deve mangiare. Il commercio deve continuare e così è stato. Dalla guerra stessa gli uomini d'affari ottennero un modo pacifico di fare affari. Finché durò la guerra con la Francia, il commercio prosperò tra i coloni inglesi e i francesi. E il capitano di una nave commerciale non scappava più dalle marine reali, ma stava in piedi, aspettava che gli ufficiali del re salissero a bordo e li incontrava con un sorriso e un giornale. Per 6.000 anni, in economie pianificate, lo scambio pacifico di beni utili è sopravvissuto grazie a due mezzi, il contrabbando e il furto. Nel vero spirito di una vecchia tradizione, gli uomini d'affari coloniali ebbero un'idea brillante. I governi in guerra hanno prigionieri da scambiare perché un commerciante non può scambiare i prigionieri. Corruppero gli ufficiali francesi e britannici, corruppero le autorità portuali britanniche e francesi, ottennero i prigionieri e i permessi ufficiali per navigare verso le Indie occidentali per scambiare i prigionieri. Finché la guerra continuò, la nave poté navigare avanti e indietro trasportando merci e prigionieri. In ogni porto si sviluppò un vivace commercio di permessi e prigionieri. I permessi venivano venduti all'asta pubblica, i prezzi salivano e scendevano e gli speculatori giocavano al mercato dei permessi. Naturalmente, nient'altro che la forza avrebbe potuto separare i prigionieri dai permessi, oziosi e ben nutriti. I prigionieri, sia francesi che inglesi, andavano dritti dritti con quei documenti e si lasciavano trasportare dalla guerra in interminabili viaggi per mare. Il commercio fu pacifico finché durò la guerra, ma la guerra finì. Il governo britannico rinnovò nuovamente il piano quinquennale e i commercianti rimisero le armi sulle loro navi. 9 anni dopo, il capitano di uno sloop di un commerciante o contrabbandiere ingannò una goletta della guardia costiera britannica che lo inseguiva, facendolo incagliare sulle rive della baia di Narragansett. Gli abitanti di Provincetown e Bristol lo acclamarono per le strade. Ma un secondo pensiero li tranquillizzò. La nave del governo si sarebbe liberata con la marea crescente. 8 barche a remi di Provincetown e una di Bristol, piene di uomini armati di coltelli e moschetti, partirono in pieno giorno per attaccare una goletta armata della Marina del Re. Il capitano di quest'ultimo ordinò ai suoi uomini di puntare i cannoni e sparò una bordata contro le barche a remi. I rematori continuarono a remare, Sciamarono sulla fiancata della goletta, stesero l'equipaggio, ferirono il capitano, li portarono tutti a riva e bruciarono la nave del re. Il suo nome era Gaspi. Il luogo dove giacevano le sue ceneri è ancora chiamato Gaspi Point. Nessun ufficiale britannico nella colonia osò fare un arresto. Gli ufficiali della Marina di Sua Maestà al largo non osarono sbarcare per arrestare gli uomini di Provincetown e Bristol. Tutti sapevano chi erano. Il governo di Sua Maestà offrì grandi ricompense per informazioni che portassero al loro arresto e ci sono americani lungo quella costa che stanno ancora ridendo. Gli individui hanno iniziato questa rivoluzione, l'hanno iniziata in ogni colonia, hanno combattuto contro il preteso controllo del governo per 120 anni. Gli uomini uscirono dalle capanne di frontiera in Virginia in 500, disobbedendo al governatore che proteggeva i commercianti di pellicce che vendevano whisky e armi agli indiani. Combatterono gli indiani, ripulirono la frontiera da quei razziatori e assassini e poi si rivolsero a Jamestown e cacciarono il governatore reale e bruciarono la sua casa. I singoli agirono nelle Caroline, in Pennsylvania, nel Connecticut, nelle sovvenzioni del New Hampshire, nel Massachusetts per 115 anni. La loro ribellione fu continua e crescente. E quando alla fine questa ribellione costrinse il governo britannico a usare l'unico potere che ogni governo ha, la forza usata con il consenso generale, e le truppe britanniche entrarono a Boston per ristabilire l'ordine, gli americani, beh, non acconsentirono. Si alzarono e combatterono i regolari britannici. Un uomo ha iniziato quella guerra. Chi conosce il suo nome? Era un contadino, dormiva nel suo letto, quando qualcuno bussò alla sua porta e gridò nella notte: "Arrivano le truppe!" Cosa poteva fare contro le truppe del re? Un uomo. Se fosse stato il re sarebbe stato diverso, allora avrebbe potuto fare grandi cose, avrebbe potuto rimettere tutto a posto, avrebbe potuto rendere tutti buoni, prosperi e felici, avrebbe potuto cambiare il corso della storia, ma non era un re, non era un governatore reale. Non era un uomo ricco, non era nemmeno prospero, non era affatto importante e non era nemmeno conosciuto al di fuori del quartiere. Cosa poteva fare? A cosa serviva il suo tentativo di fare qualcosa? Un uomo solo, anche pochi uomini, non possono opporsi alle truppe del re. Aveva una moglie e dei figli a cui pensare. Che ne sarebbe stato di loro se si fosse comportato come un pazzo? La maggior parte degli uomini aveva più buon senso. La maggior parte degli uomini sapeva di non poter fare nulla e rimase a letto quella notte a Lexington. Ma un uomo si alzò, si vestì, prese il fucile e uscì per andare incontro alle truppe del re. Fu un uomo che non acconsentì a un controllo che sapeva non esistere. La battaglia sulla strada di Lexington non sconfisse le truppe britanniche. Quello che fece quell'uomo fu sparare un colpo che si sentì in tutto il mondo e che si sente ancora. Un dito su un grilletto diede inizio alla guerra per la rivoluzione, che oggi sgancia bombe da Amburgo a Tokyo. Quello sparo fu il primo suono della voce di un uomo comune che il vecchio mondo abbia mai sentito. Per la prima volta in tutta la storia parlò un individuo, un uomo comune, sconosciuto, non importante, ignorato, senza rango, senza potere, senza influenza. Non agendo sotto ordini, non guidato, ma stando in piedi da solo, agendo di propria volontà, responsabile, autocontrollato, sparò sulle truppe del re. Sfidò un impero mondiale. Il suono di quello sparo diceva: il governo non ha potere se non quello della forza. Non può controllare nessun uomo. Nessuno sa chi abbia dato inizio alla rivoluzione americana. Solo i suoi vicini lo conoscevano e nessuno ora si ricorda di loro. Era un uomo sconosciuto, un individuo, l'unica forza che potrà mai difendere la libertà.